Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Edizione speciale. Domande e risposte sul coronavirus. Buongiorno, proseguiamo a monitorare le mosse del coronavirus. In linea con noi il professor Giovanni Di Perri, ordinario di malattie infettive all'Università di Torino e consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, allora sappiamo che è un virus respiratorio che si diffonde attraverso il contatto stretto. Sì. Ma qual è la definizione di contatto stretto? Ce la vuole dire? Ma allora, dobbiamo dividere, sono due semplici capitoli. Uno è quello della condivisione dell'aria, cioè effettivamente noi quando parliamo, quando respiriamo, emettiamo particelle di varie dimensioni col nostro vapore acqueo, un po' sputicchiamo anche quando parliamo, le particelle più piccole, quelle che in termini proprio di dimensioni sono fra i 2 e i 5 micro, sono quelle che veicolano le infezioni. Dalla tubercolosi alle virosi respiratorie come questa, l'influenza e quant'altro. Perché? Perché sono talmente piccole che possono effettivamente galleggiare in aria per un 20-30 minuti ed essere anche per esempio risospese se uno apre una finestra, una porta, c'è un soffio diciamo di vento, un flusso d'aria che le può... Diciamo, queste sono, quindi galleggiano in aria, noi possiamo inspirarle che con la nostra normale attività diciamo di respiro all'interno di una stanza che magari condividiamo con un malato, queste sono talmente piccole che raggiungono le basse vie respiratorie, dove sappiamo il coronavirus in particolare si trova bene nell'aderire alle cellule epiteliali del polmone profondo e nel replicarsi in questa stessa. Questo è. Poi ci sono modalità cosiddette complementari che riguardano per esempio una virosi dei bambini, ma non solo dei bambini, bambini in particolare dei neonati, che è il virus respiratorio sincitiale. Quello lo si acquisisce forse soprattutto toccando con delle mani infette che hanno toccato secrezioni e quant'altro la nostra congiuntiva, il orifizio, delle occhi, narici, naso, eccetera. Bocca. Parliamo anche della velocità con cui si diffonde il virus. I nuovi casi fanno, si è sempre parlato di una contagiosità, voi utilizzate dei numeri 2.2, 2.6, lei ce li spiegherà, ma adesso tutti questi casi nel nord Italia spingono tante persone a domandarsi se il virus abbia un po' accelerato, non stia correndo, sia diventato più contagioso. Professore. Allora, da dire due o tre cose, evidentemente questa infezione è molto contagiosa se confrontata a ciò che abbiamo misurato nel recente passato e quindi alla cosiddetta sindrome respiratoria medio orientale, la MERS, alla cosiddetta SARS, quindi insomma abbiamo dei parametri fra l'altro su dei coronavirus, quindi questa è effettivamente molto contagiosa. C'è da dire questo, che l'interpretazione attuale di quello che sta avvenendo in Italia è che noi sostanzialmente abbiamo iniziato a fare i test da 3 giorni, perché prima eravamo legati a un inquadramento epidemiologico che avesse in qualche modo una relazione con la Cina, viaggio in Cina, amico che torna dalla Cina, parente che torna dalla Cina e quant'altro. Allora, quasi per caso, nel senso che a un certo punto per una notizia che forse è priva fra l'altro di consistenza, cioè la relazione fra il cosiddetto paziente zero che sembra non esserlo e il primo caso di Codogno, in tutta Italia si è cominciato a chiedersi ma allora forse sta già circolando, forse già circolava e allora tutti stanno testando casi che da un punto di vista clinico e anche per motivi di gravità possono sembrare effettivamente la malattia attribuibile a questo nuovo coronavirus e allora di colpo in 3 giorni ne abbiamo trovati tanti. Professore, ma le persone che hanno una sintomatologia grave, no, a cui lei faceva riferimento, hanno delle caratteristiche comuni? Cioè si è intervenuto tardi, sono persone fragili, hanno una certa età, stanno, non lo so, mi dica lei. Ma sostanzialmente dunque, allora sotto i 9 anni non si è ammalato nessuno. Diciamo che la mortalità complessiva in questo momento i dati diciamo di tutto il mondo, quella famosa schermata della Johns Hopkins University, è 3,12%. Peraltro, curiosamente, la mortalità presa nella provincia di Hubei, dove c'è Wuhan, è 3,66%. I casi fuori dalla Cina hanno una mortalità 1,66%, sotto il 2%. E sostanzialmente si limitano a soggetti, purtroppo c'è qualche giovane che si ammala, il nostro collega cinese di 34 anni, lo stesso caso di Codogno è un ragazzo giovane, 38 anni, sportivo, in piena salute. Non c'è dubbio, però in termini macrodemografici, ovvero di numeri, si ammalano gli anziani, soprattutto se ipertesi, diabetici, con patologia ischemica del cuore, diciamo in cura per tutta una serie di cronicità. Questi sono, ma questo ricalca il modello dell'influenza. Rispetto all'influenza, la cosa forse benevola è che a livello infantile, pediatrico e addirittura sembra anche nelle gravide l'infezione non comporti conseguenze particolari. Grave. Questa è una buona notizia. Professore, lo ripetiamo, indicazioni, sì. Istruzioni per l'uso. In caso di sintomi respiratori, la febbre, ho paura di aver contratto il nuovo coronavirus, mi viene in mente che ho viaggiato, eccetera. Che cosa devo fare e che cosa mi può succedere? Ma allora, dunque, se uno è abituato a consultare il proprio medico di base, si fida e ha un rapporto, insomma, lo consulta, gli chiede consiglio, eccetera. Se no c'è un numero verde, se no conoscerà qualcuno che conosce un medico bravo e in qualche modo si informa. Dopodiché questo gli chiederà quattro cose, ma insomma se è di una qualche attenzione, perché in effetti è per la gravità, diciamo, perché comincia ad avere il respiro corto, la febbre è alta da 4 giorni, insomma un qualcosa del genere, verranno presi dei provvedimenti, lo visiteranno ed eventualmente provvederanno a fare innanzitutto quella diagnostica convenzionale di cui vi dicevo, quindi influenza A, influenza B, il rinovirus, che è un test non coronavirus, che esiste da tempo, automatizzato, si fa brevemente e intanto magari diamo già un'etichetta a questa infezione respiratoria. Dovessero rimanere dubbi, problemi, essere questo test negativo, beh effettivamente a questo punto si procede a quello che è il test del coronavirus, che in questo momento è ancora un qualcosa di para artigianale, perché insomma è stato sviluppato in tutto il mondo da meno di 3 settimane, però credo che nel giro di poco tempo si automatizzerà, ecco, da questo punto di vista. Professore, vitamine, sali minerali, c'è qualche evidenza, si suggeriscono, ognuno fa come vuole, ma alcuni hanno un po' di letteratura, lei che dice? La sana alimentazione, poi laddove esiste un deficit specifico, la vitamina D, la supplementazione può essere utile per chi vive soprattutto in zone urbane, l'esposizione al sole e quant'altro. Però ecco, il tipo di alimentazione nostra mediamente è abbastanza esaustiva in termini di copertura di vitamine e sali minerali. Ecco. E se le dicessi lavaggi nasali? Ma quello in teoria, un'igiene anche della bocca e delle cavità nasali ha senso, ecco, voglio dire, ci sono tutta una serie di presidi che non sono ai vertici dell'attenzione, diciamo, medica, preventiva, eccetera, ma lei consideri certamente i lavaggi nasali, certamente per esempio anche l'uso dei lisati batterici, laddove ovviamente il soggetto è già stato vaccinato per l'influenza, per lo pneumococco, eccetera, sono tutti piccoli tasselli di un mosaico, che alla fine ognuno dà il suo piccolo grande contributo e francamente fanno parte di un atteggiamento complessivo, diciamo, di tutela della propria salute. Ci sentiamo malati, ci misuriamo la febbre, abbiamo un imbarazzo, diciamo, alle vie respiratorie, non mettiamoci in coda ai pronti soccorsi, parliamo chiunque sia, o se è il nostro medico di base perché ci fidiamo lo chiamiamo, se è un medico, un amico, un qualcosa, se no è il numero verde, se no si chiama, non mettiamoci in coda ai pronti soccorsi. Cioè, voglio dire, ti curi per cosa? Hai già malattie in atto? Sei iperteso? Cioè, voglio dire, un minimo di inquadramento lo si fa al telefono. Poi, se diciamo, esistono gli elementi per procedere, beh, si andrà anche nelle malattie infettive a farsi visitare, eventualmente poi a fare i test del caso. Però dico, non mettiamoci in coda al pronto soccorso. Innanzitutto perché si aspetta un sacco di tempo in questa fase. E poi perché nel caso effettivamente facciamo dei danni. Un torno. Esatto. Senta, professore, ricorre spesso la domanda alla febbre. Quando parlate di febbre, rapidissimamente, parlate di una febbre importante o due lineette di febbre, e di che tipo di temperatura parliamo? 37,2? Tutto è proporzionale. I casi gravi descritti in Cina e quelli che stiamo vedendo hanno una febbre effettivamente persistente, che è una febbre che dura diversi giorni. Poi c'è chi evolve verso una spontanea guarigione, come quello che avviene nella maggior parte dei casi, chi purtroppo va verso l'insufficienza respiratoria e poi, insomma, che può anche evolvere. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con i dubbi sul coronavirus. Le vostre domande troveranno risposta dagli esperti della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali dalle 10.45 alle 11 ogni giorno. Una sorta di speciale obiettivo salute per rispondere a tutte le vostre domande, a tutti i vostri dubbi. Quindi mi raccomando, partecipate. Buona giornata, ci sentiamo prestissimo.